Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Mese di settembre, ormai tutti pronti a tornare sui banchi di scuola, tutti quelli che ci devono tornare evidentemente, gli studenti, gli alunni, gli insegnanti e a latere anche le famiglie, perché chiaramente anche le famiglie sono impegnate in questo periodo e lo saranno per tutti i prossimi 9 mesi. Di scuola e di costi della scuola parliamo col presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Che sia una voce costosa e significativa per i bilanci di una famiglia, la scuola lo sappiamo già, ma mi pare che la tendenza agli aumenti non si sia fermata in questi anni. Certo Mirko, costosissima soprattutto anche perché si presenta sempre in un periodo molto delicato per le famiglie, in quanto per chi ha avuto la fortuna di andare in ferie in agosto, adesso si trovano a dover affrontare la scuola per i ragazzi a settembre, e per chi ha deciso di rateizzare l'IMU sulla seconda casa, a settembre ricordiamoci c'è anche la seconda rata, per cui certamente un mese molto duro che soprattutto va ad appesantire già una situazione molto critica per le famiglie e in particolar modo per coloro che hanno i figli. Rispetto alla mia e alla tua generazione, credo che le voci di spesa non siano cambiate, quindi libri e libri, vocabolari e attrezzatura lì dove eventualmente serve. Non sono cambiate, giustamente, però è vero che il costo dei libri sono passati anche questi da lire all'euro. E soprattutto ogni anno vediamo che, malgrado le rassicurazioni da parte del Ministero rispetto a un altro, che sui prezzi della spesa e sulle iniziative, e poi possiamo discutere come fare per poter contenere il costo dei libri, poi certamente ogni anno si registrano degli aumenti, e anche quest'anno rispetto all'anno scorso registriamo aumenti che possono arrivare fino al 4% sui libri. Ma attenzione che poi la differenza la fanno anche il costo dei materiali griffati, che qua veramente potrebbero far sballare completamente la voce di spesa predisposta dalle famiglie rispetto ad altre che magari si decide di non scegliere il prodotto di una certa marca. Per non parlare poi delle spese di trasporto, e penso soprattutto alle scuole superiori, con i biglietti, gli abbonamenti che in molte province e molte città proprio col mese di settembre sono aumentati. Andiamo per ordine, i libri allora, che sono certamente la voce principale, molto si sta facendo anche per il riutilizzo, molto anche in alcune scuole, però purtroppo pochissime, per i libri elettronici. La situazione che voi avete fotografato qual è? Allora, noi abbiamo calcolato che quest'anno sicuramente i libri e i trasporti sono le voci che incideranno di più su un costo complessivo. Fermo restando che la voce complessiva per un figlio che va dalla terza media alla prima superiore quest'anno a scuola è collata, se ha bisogno di un mezzo per recarsi a scuola urbano, extraurbano scusa, e quindi abita a pochi chilometri fuori dalla città, arriva a pagare complessivamente 980 euro, di cui per i libri abbiamo circa 360 euro come costo. Poi abbiamo l'abbonamento che negli ultimi 2 anni è aumentato di circa il 30%, e arriva a costare circa dai 325 ai 340 euro annui. Poi abbiamo la tassa di iscrizione scolastica, che si registra un importo minimo di circa 100 euro per l'iscrizione, ma abbiamo anche registrati istituti che chiedono fino a 120-130 euro. Poi abbiamo tutto il kit scolastico comprensivo di quaderni, astucci, zaini, specchi, compassi, via dicendo, che possono arrivare addirittura oltre 150 euro. Poi per chi fa i licei rispetto agli istituti tecnici, certamente bisogna mettere in conto le spese dei dizionari, e qua si può arrivare addirittura anche a spendere 100 euro per uno, e bisogna mettere in conto comunque che oltre ai dizionari di italiano, quindi di greco o di latino, appunto per chi che fa questo tipo di scuole umanistiche, ma c'è anche i manuali per i periti, per chi comunque va agli istituti tecnici, che messo insieme a tutto quanto si può arrivare a circa 1000 euro, fermo restando che se si decide di acquistare prodotti griffati, allora la spesa potrebbe completamente sballare. E questa è la spesa di uno, per cui immaginiamo che ci sia anche magari un figlio più piccolo che magari va alle medie o alle elementari, magari si spende meno, ma si spende comunque. Si spende comunque anche perché comunque Griff e accessori, sappiamo benissimo che difficilmente si rinuncia, e soprattutto che articoli che magari non sono compresi su quelli che sono gli elenchi normalmente consegnati ai genitori, bisogna tenere conto appunto dello zaino, dei colori, dell'agenda, dell'astuccio e di tutti quegli accessori che poi possono corredare la vita di un ragazzo durante l'anno scolastico. Poi, come hai detto te, purtroppo siamo lontani da iniziative volte a poter far risparmiare famiglie, in particolar modo per chi ha anche più di un figlio, perché poi scopriamo che a parte la bassa discrezione non si porta in detrazione nulla in occasione della rappresentazione dei redditi, ma oltretutto non sono più scaricabili le spese di trasporti, per esempio, che era una spesa che incide molto appunto in un complesso, in un paniere, chiamiamolo così, di costi che la famiglia deve sostenere, ma poi soprattutto mancano tutte iniziative che possono sfruttare anche la tecnologia che oggi magari con l'avvento di internet, dell'iPod e di quant'altro si potrebbe tentare di risparmiare. E da ultimo bisogna sottolineare come l'unica risorsa che rimane disponibile per gli studenti è quella di rivolgersi ai mercatini degli usati. Eh sì, quello è un sistema che è stato sempre più diffuso, anche di condivisione tra le famiglie. So che voi avete monitorato tramite un negozio, una libreria di Mestre, alcune scuole dove si sono trovate anche delle diminuzioni o quantomeno dei non aumenti. Sì, ci sono stati anche dei non aumenti sostanziali, delle lievi diminuzioni rispetto ad altre scuole. Poi è anche vero che poi, come abbiamo detto, la differenza non è quanto sui 10 libri tipo che abbiamo preso in esame, di cui gli studenti devono comunque per forza aver bisogno, ma poi bisogna verificare su tutto l'arredo che magari può venire richiesto dopo i primi giorni di scuola dai professori, che non è contemplato, potrebbe comunque andare ad incidere anche qui sulla spesa complessiva. Certamente, come detto, ci sono stati fatti delle iniziative anche da parte del governo, che per noi rimangono tentativi di bloccare i prezzi e di non cambiare l'edizione dei libri, ma sostanzialmente abbiamo notato che, come detto anche nell'apertura della puntata, rispetto a noi non è cambiato molto. Ecco, diciamo che noi possiamo anche suggerire di utilizzare internet come ulteriore strumento per poter magari verificare se tramite qualche sito c'è la possibilità di acquistare tramite internet i libri. Insomma, le scuole, so che alcune ce ne sono che si stanno attrezzando anche con libri in formato elettronico, condividendo, stampandoli proprio, però lì entriamo in un discorso di finanziamento alle scuole, lì dove sappiamo che ad esempio in tanti istituti manca anche la carta igienica, quindi figuriamoci se possono permettersi di comprare loro o almeno finanziare in parte l'acquisto dei testi scolastici. Terremo monitorata la situazione anche nel corso dell'anno e delle prossime settimane, che sono critiche. In bocca al lupo a chi sta cominciando in questi giorni le attività scolastiche. Con l'Adico, con Carlo Garofolini, ci ritroveremo per un altro argomento. Grazie Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.